Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno, sono le 11:10, benvenuti a voi e benvenuto al dottor Franco Confaloniere, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese Corro, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Il nostro appuntamento del venerdì resiste e per festeggiare noi oggi parliamo di resistenza. È una parola, dottor Confalonieri, con cui chi pratica sport si confronta quotidianamente, una sfida che va giocata su due piani, quello fisico e quello mentale. Lei è resistente? Sì, a venire qua tutti i venerdì? Sì, si direbbe. È un piacere. Io sono resistente, sì. Se avessi fatto sport sarei stato più resistente che veloce. E comunque nella vita mi considero assolutamente resistente. Credo che sia una delle mie poche qualità. E in genere nello sport la resistenza è una delle tre qualità fondamentali insieme alla forza e alla velocità. E oltretutto è di gran lunga la qualità più allenabile, cioè quella che possiamo costruire con più facilità. Non solo, è quella che decade meno con l'invecchiamento. Diciamo che a partire dai 20 anni noi cominciamo a decadere, questa è la triste realtà. Alcuni, Più o meno. Però la resistenza è la qualità che possiamo allenare di più e quindi che addirittura possiamo incrementare col passare dell'età. Resistente è senz'altro il nostro ospite che è tornato a trovarci, il professor Piero Trabucchi, psicologo dello sport, professore all'Università di Verona in psicologia dello sport e autore di Resisto, dunque sono, Corbacci Editore, un libro che io vi consiglio, ma intanto saluto il professor Trabucchi. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Senta, buongiorno Franco. Io buongiorno, ho letto il suo libro più dal titolo, perché il titolo mi intrigava molto. Che cosa si nasconde dietro questo titolo? Chi l'ha scelto? Beh, questo titolo come nasce è un po' un segreto, non è mio, ecco, non posso dire come è nato, ma comunque dietro il titolo c'è il fatto che c'è un collegamento tra la resistenza in senso fisico e la resistenza esistenziale a cui faceva riferimento vantando le proprie doti personali il dottor Confalonieri. Che questa, noi le prendiamo così e poi non dovremmo. Sì, sì, chiaro. Sì. E poi tutti gli aspetti mentali, no? Cioè c'è una resistenza psicologica, c'è una resistenza mentale che secondo me è importante nella vita tantissimo, ma anche nello sport, anzi molto spesso fa la differenza. Senta, ma chi pratica sport secondo lei è poi più anche resistente o resiliente nella vita? Sì, io sono convinto di questo, cioè credo che la pratica sportiva sia uno dei pochi mezzi rimasti nella nostra società per sviluppare certe qualità, certe caratteristiche psicologiche e mentali delle persone, no? Quindi si fa un percorso di crescita praticando magari proprio uno sport di resistenza. E a me piace molto questo fenomeno dello sport amatoriale che ha avuto un enorme sviluppo e crescita negli ultimi anni, no? Cioè tutte queste persone che hanno una famiglia, lavorano e magari riescono tutti i giorni a trovare uno spazio che costa fatica, costa sacrificio, insegna ad impegnarsi per raggiungere un obiettivo per fare una pratica sportiva. Ovviamente è chiaro, poi c'è una minoranza che lo fa in un modo come dire, un po' forse malato, no? Che magari trascura altre cose della propria vita e si concentra solo su quello. Questo secondo me è sbagliato, ma invece se uno riesce a imparare a gestire tutte queste cose all'interno della propria esistenza ha solo da guadagnare, insomma, sia in senso fisico ma anche molto, ci dimentichiamo che molto spesso è un guadagno psicologico. Facebook, mail, essere benessere@radio24.it, numero verde 800 24 0024, potete raggiungerci anche via messaggio 349 238 6666. Dottor Confalonieri, resisteremo anche alle sue domande di oggi? Sì, innanzitutto vorremmo capire dai nostri ascoltatori se per loro, relativamente alla pratica sportiva, è più importante la resistenza fisica o quella psicologica. Cioè la vostra prestazione, il vostro obiettivo, lo raggiungete maggiormente attraverso una resistenza di tipo mentale o una resistenza di tipo fisico? E poi chiederei anche richiamando un po' quanto ci siamo detti fino adesso, siete sportivi amatoriali, siete sportivi praticanti, ecco, quanto lo sport vi ha aiutato ad essere più resistenti anche rispetto al quotidiano, rispetto alla vita? Ecco, queste sono un po' le due domande di oggi. Allora, prima di chiamarci, di mandarci un messaggio, di scriverci su Facebook, prendete qualche spunto. Stefano Baldini, medaglia d'oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene 2004. La maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici italiana, va a Stefano Baldini. Bravo, bravo! L'esistenza è la capacità di un individuo di sostenere uno sforzo prolungato, e non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico. Ho sperimentato su me stesso che gli sport nei quali tu utilizzi un mezzo sono molto più allenabili, quindi la tua resistenza può essere allenata molto di più rispetto ad esempio ad uno sport come la corsa, nel quale devi contare soltanto su te stesso. Ma la resistenza è una sofferenza calcolata presa con il sorriso, ecco, questo è sempre è stato il modo in cui io ho inteso lo sport. So che sarà una prova faticosa, ma cerco sempre di prenderla col sorriso, perché questo ti porta ad avere una soddisfazione migliore alla fine. È anche un po' un poeta. Professor Trabucchi, quanto è importante l'aspetto mentale nella preparazione della maratona? Beh, secondo me è fondamentale, cioè nel senso che alla fine quello che sta succedendo negli ultimi anni è questo, cioè i modelli di previsione della prestazione una volta si basavano solo su indicatori di tipo fisiologico, di tipo fisico, come il massimo consumo d'ossigeno, no? Quindi diciamo test che venivano fatti in laboratorio. In realtà poi nella vita di tutti i giorni, anche con grandissimi atleti, si vede che poi questo tipo di indicatori a volte fallisce, cioè chi vince delle gare non è quello che ha il motore in assoluto più potente, ma in realtà quello che ha un certo tipo di mentalità, ha alcuni atteggiamenti che gli permettono, non so, perché poi noi molto spesso colleghiamo l'importanza dell'aspetto mentale solo al giorno della gara. In realtà secondo me, soprattutto per appunto quando parliamo di sport di altissimo livello, professionismo, è assolutamente fondamentale per la carriera, cioè ci sono magari atleti che sono molto dotati da un punto di vista del motore, ma che in realtà poi smettono, interrompono la carriera perché non riescono a superare degli intoppi, degli ostacoli che possono essere gli infortuni, possono essere la stagnazione di risultati, possono essere le relazioni con l'allenatore o con i compagni, insomma tutta una serie di problemi che non sono legati al giorno della gara in sé, ma è proprio un cammino. La resistenza è un cammino, lo proviamo anche noi che non siamo naturalmente dei professionisti, che pratichiamo sport ogni tanto con una certa costanza, non lo facciamo per nulla. Parola d'ordine, resistiamo. Allora, Valerio Cleri, medaglia d'oro nella 25 km in acque libere ai mondiali di Roma 2009. Ormai è sicuro, è la prima medaglia d'oro nella 25 km, è la medaglia che questo meraviglioso mondo, quello del nuoto sulla lunga distanza, attendeva da tempo. Oro per Valerio Cleri. Dunque, la resistenza per me è riuscire più a lungo a fare una determinata azione, nel mio caso 25 km, quindi riuscire per 5 ore a mantenere un certo ritmo, una certa costanza di rendimento. Mi alleno facendo molti chilometri, faccio doppia seduta durante il giorno, ne faccio circa 10 al mattino e 10 al pomeriggio, quindi in definitiva mi alleno quasi 5 ore suddivisa in due, diciamo, in due parti. Per resistenza potrei descriverla dicendo costanza, perché solo attraverso la costanza, insomma, si può allenare un certo tipo di resistenza, una costanza di rendimento e di allenamenti, mentalità e tenacia. Dottor Confalonieri, nuoto, È un po' il mio mondo, lei, sì. È un invito a nozze, ma in acqua cosa serve di più? Ma diciamo che le caratteristiche fondamentali di chi fa gare di resistenza in acqua sono due. Innanzitutto c'è un rapporto con se stessi e con il proprio corpo, che è diverso da quello del ciclista o del corridore, perché in acqua si è da soli, quindi si è veramente da soli con il proprio corpo, non si vede nulla, non si sente nulla, e quindi è molto più forte il rapporto con le sensazioni che il corpo ci manda. E questa è una difficoltà, ma è anche uno strumento di crescita eccezionale. E poi, da un punto di vista invece più organico, indubbiamente nell'acqua c'è la difficoltà che l'avanzamento è legato in gran parte all'utilizzo delle braccia, e noi siamo bipedi terrestri che per muoverci quotidianamente usiamo le gambe, quindi abbiamo una scarsa abitudine a utilizzare le braccia, quindi l'allenamento risulta molto più complesso. Pietro Piller-Kotter, medaglia di bronzo nell'inseguimento alle Olimpiadi di Torino 2006. Manca poco al rettilineo finale. Manca poco al rettilineo finale. Va a vincere Evgeny Dementiev, Prudenti secondo, Pietro Piller-Kotter terzo. La resistenza non è altro che, dal mio punto di vista, più che altro la caparbietà nell'affrontare ogni qualsiasi allenamento che abbia una certa durata, quindi sostanzialmente tenere duro proprio nel momento in cui incomincia ad arrivare la fatica. Ma io mi trovo molto a mio agio negli allenamenti anche lunghi, sembrerà anche strano dirlo, ma ad allenarmi da solo. Spesso mi ritrovo molto volentieri con i miei pensieri, e questo mi aiuta a far passare il tempo. Infatti mia moglie ogni volta che torno a casa mi dice: sì, sei uscito, sei tornato come un vulcano, hai la testa piena di pensieri che ho veramente ogni tanto dovrei portarmi un fogliettino e scrivermi, perché ora che torno a casa alle volte me lo sono anche dimenticato. La resistenza può essere simile a, non lo so, io ammiro molto gli atleti dell'Ironman, perché credo che niente al mondo possa personificare meglio di loro la resistenza. Io vedo loro come simbolo di resistenza. Professor Trabucchi, a proposito di bipedi, lei è un bipede che vive in montagna e conosce molto bene il mondo dello sci da fondo. Quali sono le problematiche? Io ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto Pietro, nel senso che mi pare che lui sottolinei in effetti un problema grosso, che è quello che non è solo comune allo sci da fondo, che è quello della, anche in allenamento, in effetti perfino gli atleti di altissimo livello, i professionisti, in realtà spesso tendono ad andare al risparmio, cioè loro stessi devono affrontare tutte le volte la difficoltà di superare certi limiti, sì, no? Arrivare a certe intensità e tenerle. E questo è un grosso problema, cioè nel senso che ogni volta che noi cerchiamo di andare oltre e crescere, no? attraverso l'allenamento, forziamo i nostri limiti e effettivamente proviamo delle sensazioni di fatica che non siamo portati ad accettare, no? Tra l'altro, come dire, culturalmente viviamo anche in un ambiente che vede la fatica come un ostacolo, non è, sì, più non è più abituato a viverla in modo quotidiano, in modo scontato come avveniva una volta, no? E per questo credo che mi colpiva, per esempio, nell'ambiente del fondo il fatto che tutta una serie di persone che hanno fatto un cammino e sono arrivati a certi livelli provengono comunque da ambienti che magari non loro direttamente, ma i genitori, i nonni, avevano un certo rapporto quotidiano col sacrificio, con la fatica, come spesso in montagna è ancora, no? Sì. Insomma, sono addomesticati, cresciuti con un concetto di fatica che oggi si sta un po' perdendo. Abbiamo Michele da Napoli e Ruggero dalla provincia di Modena. Michele, buongiorno. Buongiorno. Io ho subito un piccolo infortunio alla schiena 2 anni fa, e prima di questo infortunio non c'era tempo che teneva, inverno, estate, io di mattina, di sera tardi, uscivo, facevo 10-13 chilometri di jogging, di corsa, non a livello agonistico. Poi sì, ho subito questo infortunio e adesso più che la resistenza mi manca la continuità, la continuità nel tempo, come si fosse rotto qualcosa non solo fisicamente ma anche mentalmente, e non riesco più ad avere quel grip, quella, quello slancio, che ripeto, sia d'inverno che d'estate, acqua, vento, sole, io uscivo. Adesso, dopo questo infortunio, qualcosa si è rotto, sembra quasi finito un incantesimo. Dottor Confalonieri, lei spesso paragona la passione per lo sport, il piacere che dà lo sport, ad una storia d'amore, no? E in fondo Michele si guarda questa compagna e dice: ma qualcosa è cambiato, che cosa è cambiato, perché non c'è più quel click? Ma questo paragone adesso mi ha un po' spiazzato. Comunque, no, è estremamente interessante, estremamente giusto. Direi che la resistenza è proprio anche la capacità di superare la difficoltà. E direi che Michele ha centrato molto bene delle problematiche fondamentali dell'allenamento, che è la continuità. Un allenamento ha senso ed efficace soltanto se è continuo. Purtroppo l'incidente, l'infortunio, la malattia, la problematica familiare che ci impedisce di allenarci interrompono la continuità, e riprendere è molto molto difficile, proprio perché, facendoci al paragone di prima, l'innamoramento è una cosa, ci dà molto energia, l'amore è un'altra cosa. Diciamo che la prima fase di Michele era un po' qua dell'innamoramento, si è conclusa anche in modo un pochettino brusco. Adesso bisogna capire se questo innamoramento riesce a trasformarsi in amore. Se si trasforma in amore, cioè se le motivazioni forti che stanno alla base del piacere di correre esistono, allora probabilmente sarà capace di resistere a questo infortunio e di ricominciare. Professor Trabucchi, se cambiassimo rosa, e cioè invece che correre magari si desse ad un'altra attività sportiva? Sì, funziona, il cambio? A volte funziona, a volte no. Sì. Io sono d'accordo col dottor Confalonieri, assolutamente, credo che la motivazione abbia degli elementi di mistero, un po' come appunto una relazione d'amore, e a volte lo sappiamo tutti, quando queste relazioni finiscono non c'è niente da fare, insomma uno può tentarle tutte ma non ricominciano più, no? E, però, come dire, io direi a Michele di riprovarci ancora, insomma, come se a volte uno tenta disperatamente di salvare un amore, ricorre a tutte le, prima di come dire, metterci definitivamente una pietra sopra, magari è normale, cioè credo che sia abbastanza una cosa comune a tutti gli esseri umani, il fatto che tenere un livello di motivazione sempre uguale, sempre molto alto è molto difficile. Ci sono dei momenti di calo di motivazione, bisogna anche saperli in un certo senso accettare come fisiologici, no? Quindi non spaventarsi, probabilmente magari la cosa, se lui insiste a, diciamo, continua a impegnarsi, poi darà dei risultati. Sì. E parleremo anche, daremo sicuramente anche delle indicazioni pratiche a chi di voi vuole essere aiutato dal professor Trabucchi o dal dottor Confalonieri per migliorare in resistenza fisico-mentale. Ma adesso mercati, meteo e poi di nuovo insieme. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Corsi fino all'oceano. E una volta lì, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre. Da mettere, no? Nell'iPod mentre si corre. Perché, professor Trabucchi, mi piacerebbe anche così coinvolgere gli ascoltatori. C'è un momento in cui si capisce che si deve andare oltre, no? Vincere qualche cosa. E a livello mentale ci sono tante cose che possono venirci in aiuto, può essere la musica. Io ad esempio, quando risentendone anche Roberto Scaltritti in regia, no? Risentendo questo pezzo di Forrest Gump, sappiamo che è assolutamente un'esperienza fantasiosa, cinematografica, ma è ricaricante. E ci sono delle cose che aiutano lo sportivo amatoriale, anche chi non fa sport, a investire, no? A fare quel passetto in più. Immagino, mi piacerebbe sapere cosa fanno i miei ascoltatori, e allo stesso tempo, dottor Confalonieri, il fisico di chi fa sport manderà dei messaggi, no? E uno poi è, al momento lì deve scegliere se assecondarli, resistere, superarli. Dottor Confalonieri, lei ad esempio come se la gioca? Quando deve dire tengo duro, vado avanti? Ma forse sull'aspetto psicologico poi sentiamo trabucchi. Sicuramente io mi racconto tutte le volte che sono riuscito ad andare avanti, ecco, in questo modo riesco ad andare avanti una volta di più. E rispetto invece, così approfitto per rispondere subito a quelli che sono i segnali che invece ci manda il nostro organismo, che non possiamo trascurare, innanzitutto il calo del desiderio di fare sport, perché comunque è un indicatore importante, e poi i segnali più classici, la diminuzione del sonno e la diminuzione dell'appetito. Questi sono i segni di sofferenza che qualche equilibrio si sta rompendo, e allora dobbiamo ridurre o modificare il nostro rapporto con l'esercizio fisico. Per ultimo, ovviamente, qualsiasi problematica a livello articolare o a livello osseo tipica da sovraccarico, perché se questa non va ascoltata in tempo rischiamo poi di fermarci molto a lungo. Professor Trabucchi, invece a livello mentale che cosa ci aiuta? Io proprio prenderei spunto dal mondo dello sport, che lei conosce così bene, per trasferire anche delle indicazioni a chi sport non lo fa, perché noi al venerdì parliamo di sport, ma l'idea è quella, è il nostro obiettivo, è quello di allenarci ad una mentalità che è molto, no, vicina alla resilienza, che è una gran bella cosa, no? Sì, ma secondo me una cosa, diciamo, che tutti facciamo, indipendentemente che sia durante la pratica sportiva o nella vita quotidiana, abbiamo un po' questa pretesa, appena incontriamo delle sensazioni di disagio, di cambiare immediatamente stato mentale, no? E diciamo che questo è legato alla cultura in cui viviamo, no? Noi accendiamo la televisione, siamo bombardati da messaggi che ci dicono: appena hai un po' di mal di testa, immediatamente devi prendere la pastiglia per farlo passare in un attimo, in un siamo momento. Siamo abituati alle scorciatoie. Allora, credo che un grosso insegnamento che ci può dare lo sport è quello di accettare di stare con queste sensazioni che all'inizio, come dire, sono sicuramente inconsuete se uno non è abituato a conoscerle. E in particolare, come dire, appunto la fatica, cerchiamo di evitarla, e allora stare lì con queste sensazioni, tra l'altro sgombrare il campo. Io una cosa, diciamo, con cui spesso mi trovo a parlare con gli atleti con cui lavoro, è l'aspetto emozionale della fatica, cioè sì, che è un aspetto con cui noi coloriamo, il nostro cervello colora le sensazioni dell'affaticamento, e sono molto legate, in realtà noi crediamo che siano qualcosa interno alle informazioni che arrivano dalla periferia del corpo, in realtà ce le aggiungiamo noi, cioè ci sono persone che è abbastanza comune, la prima volta non so, che fanno una gara di corsa, quando arrivano a certi livelli di fatica si spaventano, no? Dicono sì, oddio, mi fermo perché non qua mi succede qualcosa. Sì. Ecco, in realtà questa coloritura spaventosa ce la mettiamo noi. E bisognerebbe imparare a gestire le emozioni legate all'affaticamento. Ecco, o ma se a me, professor Trabucchi, che mi butto in questa avventura, a un certo punto ho paura perché sto correndo metaforicamente troppo, che cosa faccio? Qual è un pensiero? Lei dice bisogna allenarsi, mi dia un esercizio, mi dia una parola magica, mi faccia capire da che cosa devo, in che modo esco da questo loop. Ecco, io non mi trovo d'accordo su questo termine, la parola magica, cioè credo che proprio la resilienza e tutto il mondo dello sport ci conferma che non esistono magie, non esistono scorciatoie, cioè tutto passa dal fatto di giorno per giorno fare un cammino che è molto impegnativo, richiede impegno. Allora se lei si trovasse con diciamo delle sensazioni che diciamo la spingono a fermarsi, a smettere di correre, fermo restando che a volte sono d'accordissimo con quello che dice Franco, cioè bisogna saper leggere le sensazioni, perché il corpo a volte non è solo coloritura emotiva, non è solo il fatto che il nostro cervello molte volte reagisce a degli stimoli immaginari, a volte sono sensazioni. Ci dice la verità. Ci dice la verità, quindi l'esperienza ci consente anche di distinguere quello che può essere un pericolo reale da quello che è immaginazione. Ma se è immaginazione, ad andare avanti, a cercare di gestire questa cosa. Comunque, per esempio, non magari uno può rallentare il ritmo, può fermarsi 2 minuti, ma non come fanno tanti alle prime armi, per esempio, si ritirano, no? Dicono e poi magari non vogliono più correre, non vogliono più provare un'esperienza. E quindi è un po' un'esplorazione quella che lei consiglia. Allora, io vorrei leggere da Enrico, abbiamo selezionato alcuni amici che ci hanno scritto su Facebook. Enrico: ho corso qualche maratona tanti anni fa, poi ho fatto competitive su strada fino al 2001. La voglia di faticare è venuta meno, da qualche anno sto facendo varie cose, aerobiche ed anaerobiche, ma senza grosso impegno. Dottor Confalonieri, anche qui. Ma direi che è una scelta condivisibile quella di Enrico, è un percorso comune a tanti. Ci sono fasi diverse nella vita, l'importante è che lui trovi per ogni fase ciò che lo fa stare bene. E in particolare la scelta di abbinare, come dice Enrico, attività diverse sul piano dell'impegno mentale, sul piano dell'impegno fisico, come quella aerobica e quella anaerobica, può essere una scelta vincente. In una prima fase c'era la necessità di competere, adesso c'è la necessità di dare varietà, di dare panorami diversi alla propria esistenza. Ruggero, dalla provincia di Modena, 800 24 00 24, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Sono un podista ormai sessantenne, corro da 40 anni, esco 3-4 volte alla settimana più la corsetta domenicale. Volevo dire che sono perfettamente d'accordo con le parole di Pilar Kotler che ha detto in precedenza. La resistenza per me è tenere duro quando la fatica diventa intollerabile. Perciò è stata la forza psicologica che mi ha aiutato a continuare nelle maratone che ho affrontato comunque negli anni scorsi, oppure nelle gare di fondo, ecco. Ruggero, tenere duro e superare i propri limiti. Ecco, Ruggero, mi scusi, ma lei che è un maratoneta, ha notato che da quando è proprio la corsa ha preso un'importanza nella sua vita, è cambiato anche il suo modo di vivere il quotidiano, di relazionarsi con gli altri, con le difficoltà? Secondo lei lo sport, affrontare una specialità come la maratona, ha un po' cambiato Ruggero? Ha un po' cambiato fin dall'inizio, io sono attaccatissimo a questa attività perché poi si va a letto un po' prima, non si fanno mai degli stravizi, si guarda un po' l'alimentazione, si è tutti amici nel correre la domenica, siccome sono amatoriale, non ho mai fatto niente di competitivo, ha sicuramente cambiato, si è più disponibili verso gli altri. Ruggero, grazie, la penseremo allora. Buona giornata. Grazie Ruggero, stia con noi perché noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. 800 24 00 24. E ci siamo, sono le 11:47 e in linea con noi abbiamo Andrea, ci chiama da Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Grazie intanto dell'opportunità. Ma io volevo rispondere alla domanda che è stata fatta all'inizio della trasmissione. Grazie, bene. Io gioco a rugby, pratico questo sport a livello dilettantistico, però nel campionato della federazione. L'unica differenza con i professionisti è che noi non siamo retribuiti, diciamo, però ci alleniamo 5 giorni alla settimana e giochiamo la domenica. Il rugby è uno sport che non è esattamente come quelli che sono stati descritti da altri ascoltatori, di resistenza pura, no? Sì. Non è la maratona, però è resistenza alla fatica, per tempo dato bisogna fare degli sforzi e molto intensi anche. Io direi che a un certo punto il corpo non c'è più, nel senso che a un certo punto sì, beh, ovvio che le energie ci sono, sennò non si riuscirebbe a fare niente, però è solo la testa che... Le partite si vincono con la testa principalmente, con la determinazione iniziale, ma anche con la determinazione a fine partita a portarla a termine. E stessa cosa negli allenamenti che facciamo di endurance. si va avanti, a un certo punto è soltanto la testa che ti porta avanti. È la testa che è proprio... Forse per il corpo si starebbe sul divano, tranquillamente. È detto da un giocatore come Andrea, dottor Confalonieri. Sì, direi che nel rugby c'è l'aspetto della resistenza alla fatica e della resistenza al dolore. Indubbiamente le potenzialità che abbiamo dal punto di vista organico sono fondamentalmente sconosciute. Questo è un dato di fatto. E sottolineerei anche che questa interazione tra mente e corpo, tra motivazioni psicologiche, limiti fisici, è poi un'alternativa reale fino ad un certo punto. Perché alla fine tutto ciò che è mentale va a regolare a livello neuroormonale delle risposte che sono di tipo fisico. Quindi alla fine c'è una profonda interazione tra ciò che è capace di fare la nostra mente e ciò che si modifica effettivamente a livello organico e fisiologico nell'organismo. Quindi non sono due mondi separati, questa è un'eredità sbagliata che ci portiamo dalla medicina classica occidentale. Sono due mondi che sono profondamente compenetrati, il mondo mentale e quello fisico. Quindi proprio in chiusura, visto che siamo verso la chiusura, mi sentirei di dire che le due cose vanno veramente in sinergia. Tutto ciò che è mentale condiziona fortemente le qualità fisiche di un soggetto. Mirko da Novara, buongiorno. È d'accordo? È d'accordo col dottor Confalonieri lei, Mirko? Buongiorno. Buongiorno. Sì, mi sento molto d'accordo, perché anche secondo me a livello mentale la resistenza è più a livello mentale che a livello fisico. Venendo dalla mia esperienza, io ho fatto 16 anni di ciclismo a livello agonistico. Sì. Adesso ne ho 22, ho fatto fino ai 19 anni, under 23. Sono arrivato però a dover scegliere o vado avanti a studiare o vado avanti a fare ciclismo. Ho scelto di andare avanti a studiare, sì. Però venendo meno la voglia della competizione, sì, l'agonismo, ho perso anche la mia voglia di uscire in bicicletta. E quindi sono 3 anni adesso che mi sento, non ho più la resistenza, diciamo, di prendere la bicicletta e uscire, andare a fare 2, 3, 4 ore anche in bicicletta. Professor, però Mirko? Adesso sto un po' riprendendo con la corsa, che lo trovo uno sport un po' più immediato, che basta pagare 2-3 euro di iscrizione da fare una gara della domenica. Adesso mi sto appunto usando quei trail e le corse a ritrovare quella voglia che avevo prima a livello mentale, che però avevo perso. Grazie Mirko. Professor Trabucchi, ha svoltato in fondo, no Mirko? Ha capito, ha trovato dei nuovi stimoli? Sì, senz'altro. Cioè, vabbè, Mirko è ancora molto giovane, no? Quindi è chiaro che è una fase della vita dove è molto importante la competizione con l'esterno, con gli altri. Poi secondo me è abbastanza un cammino naturale il fatto che la competizione si sposti verso l'interno, diventa con se stessi, no? Sì. Prima lui nominava il trail, allora la corsa trail, cioè la corsa in natura, è un fenomeno che sta avendo un successo eclatante in Italia, ma non solo in Italia, a livello planetario, e diciamo che una delle caratteristiche grosse è che rispetto alle corse su strada classiche, la maratona, la mezza maratona, eccetera, il rapporto, la competizione è molto meno con l'avversario, è molto meno col cronometro, è molto meno con la classifica, è molto di più con se stessi, no? E quindi credo che abbia fatto un passo in più su un cammino che secondo me lui ha 22 anni e andrà avanti per tantissimi decenni, spero per lui. È certo, questa è una garanzia. Poi se, come ci scrive Orietta, segue essere benessere è a posto, ma a volte, dottor Confalonieri, noi ce la mettiamo tutta, andiamo avanti, pensiamo anche a affrontare e organizzare tutti eventuali scogli. E a volte basta proprio un'influenzina a metterci KO. E questa inizia ad arrivare l'ora. Professor Pregliasco, eccomi, buongiorno. Qua. Buongiorno, ci si risente, arriva l'influenza e... Ma noi non riusciremo mai a essere resistenti a questa influenza, che ogni anno bisogna vaccinarsi, a proposito di resistenza, giocate in un altro significato naturalmente. Assolutamente, ma purtroppo questo virus cambiando ci spiazza, è un inseguimento continuo di virus nuovi e quindi non abbiamo, come per altre malattie infettive, quel ricordo come per il morbillo, che praticamente ci colpisce una volta nella vita e poi, anche se i nostri nipoti sono malati, non abbiamo problemi. Quindi per forza di cose siamo all'appuntamento annuale e, giustamente come dicevamo, dal 1° di ottobre si sta pianificando la campagna di vaccinazione. Ovviamente non sarà tutto il territorio organizzata nello stesso modo, e quindi i cittadini devono sentire la propria ASL, il proprio medico, per sapere orari, giorni. Importante dire, non esageriamo nell'anticiparla di corsa, si può fare con tranquillità quanto prima. E come sempre, i soggetti più a rischio, fragili, possono avere, sono quelli gratuitamente la vaccinazione, sono quelli per cui è indispensabile, ma anche gli sportivi, anche chi, come l'ascoltatore di prima, magari appunto vuole essere più protetto rispetto al rischio dell'ambiente e anche dello sforzo, perché lo sforzo fisico, lo dicevamo anche in altre occasioni, migliora la capacità di risposta immunitaria, ma nel momento post esercizio di stanchezza c'è proprio una finestra libera per virus e batteri, ed è un classico, quindi nel post partita, nel fine allenamento, avere maggiori rischi. E quindi la vaccinazione, per esempio, per l'influenza rispetto a questo problema invernale è importante. Professor Pregliasco, io non le chiedo di previsioni quanto al, rispetto a quale sarà la virulenza, quante persone metterà a letto, ma solo una previsione. Dopo le polemiche dell'anno scorso, secondo lei, come accetteranno, come affronteranno questa nuova campagna di vaccinazione influenzale gli italiani? Siamo un po' preoccupati, perché l'anno scorso si è concentrato un fuoco di fila contro il vaccino pandemico, ma in realtà è stata una concentrazione su tutta l'aspetto delle vaccinazioni in genere, perché le negatività rivolte al vaccino pandemico in realtà poi erano aspetti che riguardavano altri vaccini e che sono stati tutti messi lì. Ed è un problema, perché la pandemia è stata comunque un problema, meno male, meno grave del previsto, e ogni stagione, anche quella prossima avventura, dove avremo ancora di mezzo il virus H1N1 e altri virus stagionali, comunque sia rappresentano un problema di sanità pubblica, perché è vero che la gran parte delle persone passa l'influenza 3-4 giorni però c'è chi, però chi ha delle complicanze, gli anziani in genere, ma anche un giovane, magari se ci sono con cause o situazioni di rischio, come possono essere addirittura, l'abbiamo detto, l'attività fisica, magari in eccesso rispetto alle proprie capacità e resistenza. Allora ringrazio il mio influenzologo preferito, il professor Pregliasco, il dottor Confalonieri, il professor Trabucchi, vi ringrazio per essere stato con noi. Noi resistiamo e noi ci sentiamo anche domani. In questa casa non è un albergo, intanto statemi bene. Da Nicoletta Carbone un saluto. Essere e benessere.